l'attenzione, adesso lo sta facendo a Franco lo stesso difetto. Ve lo dovevo dire, ma se n'è andato, gli stavo per dire guarda l'attenzione che non sia troppo alta, lì si è spento il frequenzimetro parlando. No, qua è tutto a posto adesso, è tutto regolare, dai. Va bene, Carlo, tu stai usando quella? No, ancora no, sto aspettando un commutatore, capito? In maniera tale che me la posso collegare. Niente, quindi appena domani o dopodomani ci riesco, comunque così la sentirete cantare anche quella radio. Ah, ok, ma te l'hai già preso? Sì, l'ho ritirata avanti ieri, perché gli avevo mandato un messaggio e mi fa quando vuoi, per me anche stasera, basta che viene di sera, perché la mattina avevo altri impegni e io proprio la sera dovevo andare a Bonorva con mia moglie, no? E allora ho allungato prima e sono andato direttamente là e me la sono ritirata intorno alle 5 di sera, capito? È capitato così e me la sono ritirata al volo. Ah, ok, va bene, sono contento, dai. No, ma dico, il commutatore te l'hai già preso o devi ordinare qualcosa? No, l'ho già ordinato, è entrato uno piccolino a due vie, adesso ne sto provando. Ok, io ti consiglio Daiwa, io ce l'ho, ne ho due della Daiwa, due vie, ho pagato 30 euro da eBay e sono contentissimo, perché tu quando chiudi l'antenna che passa in un'altra radio non si muove neanche il segnale, capito? Io ne ho visto uno che non mi ricordo che marca è, aspetta, te lo dico subito, OPEC CX201. Ma non sono proprio buonissimi quelli, Beh dai, al limite lo provo, vedo un po' se va bene, se no prenderò uno di questi. Anche Natalino me lo diceva di prendere quella marca lì, dai, va. Gappa. Va bene, dai, ok. Sono appena rientrato, dai, faccio una bella doccetta. E niente, là, riprendi tu Carlo, fai girare, io al limite riprendo dopo, ok? Ti ascolto comunque, là. Va benissimo Massimiliano, siamo qua in radio. Riprendi Natalia. Dai, io devo mangiare adesso. Vi ascolto, dai. E ricaricati allora Natalia. Vediamo se ha ripreso Antonello. Cioè, allora c'è Gianni. Io sono fermo adesso, dai, mi sono fermato 5 minuti. Mi prendo un po' d'aria e poi torno a casa. Prendo il cane e esco di nuovo. Cioè non è mai finita per me. Volta, adesso sei salito, perché adesso è proprio fondo scala qua il tuo segnale. No, sono salito, sono vicino a casa mia, dai. È zona più aperta fuori dai palazzi. Sì, è quella strada che porta, non so se ce l'è presente, da via Mole verso il monte. Ho capito, sì, adesso mi arrivi molto forte qua, Ci sono anche alberi qua, da tutte le parti, ci sono pinetta, eccetera, eccetera, pensavo di no. Io la conosco quella zona, ci passo spesso in bicicletta anche, tutta quella zona la faccio spesso. Quella sono la rotatoria di su, sono lì, sono non quella su, ma quella diciamo, c'è quella su che arriva poi, va a San Francesco, eccetera, non è quella lì, è quella più giù. Ho capito perfettamente. E lì c'è tutta quella strada a scorrimento veloce, ho visto. Insomma, che fa tutto il giro da lì, da quella zona là. Sì, hanno fatto questa strada qui che unisce il monte, è molto utile, là, molto utile, perché invece di passare dall'altra parte, passi da qua e fai prima. Allunghi, però è molto scorrevole quella strada, poi continui su e sali e esci al Ponte Nuovo, diciamo. Esatto, io faccio quella strada quando, per dire, ci sono le scuole, che c'è traffico, io devo venire vicino a casa tua, accompagnare la mia compagna, quindi quando vengo lì faccio quella strada e diciamo evito il traffico, anche se è più lunga eviti il traffico, capito? Capito. Lì alla fine di via Grazia Deledda, forse no, più giù, la strada che porta a San Francesco, poi tutta quella zona lì, c'è una palazzina, una casa singola, tutta piena di antenne, forse c'è qualche radioamatore lì, perché ha almeno una decina di antenne, ho visto. Sì, è Marco Scorpio. È stato CB, adesso è radioamatore. Adesso, dopo, vabbè, da tanto radioamatore, però è stato anche ci guida, ogni tanto entra, ogni tanto entra a salutarci, persona in gamba. Sì, infatti ho detto qualche radioamatore, non lo sapevo che ci fosse in quella zona, però lui forse l'ho anche sentito in radio nella nostra frequenza. 1988, quello è il mio ex vicino di casa. Capito, io passando in bicicletta hai la possibilità così di osservare le cose, capito? E quindi lì ci passo spesso e si notano da lontano, capito? Per curiosità un giorno mi sono avvicinato sin su, perché poi lì finisce la strada, capito? E ho visto che ci sono un sacco di antenne, HF, VHF, ci sono di poli, di tutto di più, chi più ne ha più ne metta. Ciao Carlo, ciao, buonasera. Ehi, Umberto Carboanzi, chi ne ha più ne metta, e poi non si vi annuta. Vabbè, ognuno fa quel che può. Buonasera a tutti di nuovo, va? Lì c'è lo spazio, poi non disturba nessuno, quindi ha voglia di sbizzarrirsi, insomma, fare esperimenti e collegare frequenze diverse. Quando non hai nessuno vicino, va anche meglio. Radio, dai, mi dispiace molto. Parlato in due già, caro, ti ha coperto. Chi ha spazio come me, io qua posso fare come lui, ma non faccio niente. Assolutamente, fermo, anzi sul tetto avevo tutte le direttive uguali a quelle, bipoli, VHF, VHF, insomma, tutto quello che è servito, ma avevo 50 metri di terrazzo a disposizione. Qua non me lo sporco del terreno per mettere antenne, bipoli e fare il covo dei piccioni e delle cornacchie. Va bene, si è arrivato già. Sono fermo, Cla, sono fermo in macchina adesso, nella strada che porta su al monte, dai, quella nuova. Vabbè, sì, quando resisti, perché a te ti conosco, non compro più radio, questa è l'ultima, è da buio, così fai con le antenne. Già, se tu vieni qua, io ti faccio le antenne, ci sono i terreni, la terra lo sa. Io ho la direttiva 5 elementi per i 6 metri, ho la verticale multibanda 5 bande della PKW, ho la verticale monobanda per i 10 metri, ho il dipolo grande, enorme, che Natalino ben conosce, rifatto sempre da Marco, 15, 20 e 40 metri, ho il dipolo per gli 80, ho tutte le antenne che mi servono, tutte, non piazzo niente già, non è che devo comprare, no, io ho già comprato, ma non le piazzo perché diventa una cosa bruttissima da vedere, ma molto brutta, capite, a me non piace, rimango così, pazienza, mi diverto, io faccio i 10 metri, i 6 metri, le VHF e le VHF, basta, non faccio altro. Le altre bande non le posso fare, volendo le posso fare, ma non le faccio perché sennò diventa un casino, capito? Non mi ricordo più del posto che ho, con tutte queste antenne, queste cose. Ho tutto quello che serve, non aggiungo un paranuta. Radio se ne vuoi, quanti ne vuoi. C'ho tutto, non mi interessa, non compro niente, ma intanto attività non faccio, però c'ho tutto, cosa devo comprare ancora? Vai caro. Già fai bene, come ce l'hai tu, è tutto bello ordinato, non dà neanche nell'occhio e quindi riesci con quello che hai di antenne, dico io, a divertirti e va bene così, capito? Approvo anche la questione di non invadere troppo gli spazi, capito? Come ce li hai tu, magari te li godi meglio. No, Carlo, perché poi io lo so, capito? Cioè, le antenne che abbiamo noi sono talmente ingombranti. Se io dovessi iniziare a mettere la 5 elementi che è a Carbonazzi in mansarda, della PKW, che già 6 metri di boom, con i radiali che sono da 4 metri, e ne ha 5, già quella prende lo spazio. Devo mettere il tralicetto perché ci vuole il tralicetto, devo rifare tutto da capo, e c'ho tutto, è tutto a Carbonazzi, tutto, c'ho il master, la gabbia, devo ricomprare solo il rotore e basta, che è una fesseria, e boh. Ma poi diventa un casino perché devi mettere i tiranti, tirare sul torrino, in punta ci va la V e la U. Cioè, non ne ho più voglia di stare appeso come i gatti, capito? Non mangio più grano. E ho già sentito qualcuno che ha lo stesso mio parere. Cioè fa un po', ne toglierà tutto e userà solo le filari, basta, perché fare manutenzione a quelle antenne non è un gioco a ragazzi, sto dietro la testa, capito? superi una certa età, fino a quando sei ragazzo va bene, ma quando superi una certa età inizia a stare appeso, è pericolosissimo, quindi metterò qualche filare buttato nel campo, forse una qualcosa del genere, vedrò che faccia un po' tutto, oppure monto la verticale 5 bande, mi diverto così, non c'è problema. Il volume sono attivo, va bene, ma fare un impianto così come quello che avevo io ho dovuto pagare per smontarlo, ho dovuto pagare per smontarlo perché non ce la facevo da solo, capito già? Quelli lì non sono lavori che puoi fare da solo, è normale, e ci sono antenne grosse, non li puoi dimontare a giura, quello è normale. Andate avanti Carlos. Sì, no, e beh certo, poi a un certo punto ti autoregoli, capito, e le soddisfazioni penso che te le avrei anche tolte con tutte le altre strumentazioni, Claudio, antenne, quasi dica di strumentazione, insomma. Quindi se adesso ti hai fatto l'impianto così e ti soddisfa, va benissimo così. No, assolutamente, cioè faccio molto ascolto e posso solo parlare in 10 metri, 6 metri, VHF, non HF, basta, non metto un altro volendo, ti ripeto, domani mattina mi metto a risiedere mattina al fresco, metto per terra il diporo 15, 20 e 40 che sono le bande che interessano a me, lo attacco da un albero fino a giù in fondo dove c'è la parata con le corde, l'ho teso bene, ci vogliono altri 50 metri di cavo per portare su alla radio, ma cambiano, va, sono tutte cose che non mi interessano più, no, assolutamente. Largo ai giovani, Gianni, largo ai giovani, è così, no? Tu come fai? Vedi che già sei grandetto e per fare determinati lavori hai bisogno d'aiuto per montare un'antenna. Immaginate tu per montare questi tipi di antenne, ma non è giusto, ma non ci voglio manco pensare, lascia perdere già. Quando eravamo giovanotti, lì a Carbonati, sembrava un gatto, salendo e scendendo, adesso basta. Non ha più gana, assolutamente, lasciamo perdere le cose, già va bene così. Nella carta continuiamo a essere quelli che siamo e di persona lasciamo fare agli altri. Avanti Natalia. A meno. Io. Capito? Siamo diventano un paratratti poi. Tocca pagare per farti fare cose come fa mio padrino di Aburini. Lui paga e se le fa fare le cose. Io non aggiungiamo una parte in antenne. Ciao Massimino Bulldozer. Ciao Claudietto, Sparviero, buonasera. E com'è? Stai già indossato? Ah, parrogelo positivo, io ma non posso parlare molto perché c'è un amico che ascolta, capito? Sta sempre mandando WhatsApp a destra e a sinistra. Io ti mando WhatsApp. E ha mai compreso, da. Già parlerò, smetterò. State sempre a corsiando, sono gatti al radiolino, voi state sempre mandando WhatsApp uno all'altro. Vabbè. E così ha fatto con me, vabbè. Lasciamolo fare, se non fa peggio. Avanti, per i saluti a Massimino Bulldozer, Gianni doppio numero, fai tu cambio. Ciao di nuovo Massimo, dai, sono qua ancora, fra poco vado a cenare, dai, e vi saluto. Riprendi Natale. Natale ha detto che stava mangiando. Il signore, così ha detto, ha detto che andava a mangiare perché era giunta l'ora. Sì, di nuovo ciao Massimiliano. Niente, mi chiacchierando così con Claudio e c'è Gianni, è entrato Antonello prima e non so se sia rientrato, se è in ascolto oppure se sta facendo ancora qualcosa, vediamo se c'è. Antonello, ci sei, batti un colpo. Ma io Antonello, lascio la birra. Vabbè, sicuramente non c'è, dai. Un attimino il telefono, Massimiliano, riprendete voi un secondo solo, ce l'hai lì il telefono? Sì, chiamami che ti devo dire una cosettina. Ehi, intanto devo allontanare un secondo. Carlo, ti lascio in compagnia di loro, dai, due minuti, riprendo subito, lo fanno una telefonata urgente che mi sono indicato per domani. che hai addestrato, c'è anche Gianni, vai Gianni. Ehi, allora io sto rientrando a casa, dai, mi sono mosso e sto andando verso casa che rientro. Così prendo il cane e lo porto giù, dai, che adesso è più fresco, si può portare. Eh sì, anzi, oggi un po' ci ha dato tregua, e a parte stasera quando stavo rientrando io che stava di nuovo facendo un po' di caldo e affa, però bene o male a casa si sta bene. Ieri e l'altro giorno invece era un errore. Io anche oggi ero sempre sudato, vi ho fatto la doccia, sono uscito dalla doccia di nuovo sudato, perché era coperto, non c'era sole ma era coperto e c'era caldo. Esatto, molta umidità è quello che ti fa sudare, però la temperatura è più accettabile. Sì, quello sì. No, le macchine non si arroventano quando è nuvoloso. Stamattina quando sono uscito alle 7.20 stava piovigginando, ma era di quell'acqua sporca, perché ho azionato il tergicristallo e sui bordi ho visto il fango, capito? E neanche io rimango un attimino in ascolto, che mi sposto per fare una cosettina, già sono qua in ascolto, Massimiliano, Claudio, quando volete rientrare già ci sono. Ehi, Gianni, ce la risentiamo tra un attimo, se poi riprendi, Ehi, no, non lo so, dopo porto il cane, dai, ci sentiamo Carlo, dai, che sto entrando nel cancello, non ti potevo rispondere per questo. Vabbè, non ti preoccupare Gianni, ci sentiamo alle prossime, dai, nel caso. Ciao Gianni, buona serata. Ciao, serata a tutti. Aspetta, 10, c'è qualcuno? Non c'è più nessuno. Aspetta, canale 10, c'è qualcuno? Hola? Sono avanti? Chi è che fischia? Chi è che sta fischiando, che non mi lascia mangiare in pace? Bu bu! Fischietto, è bella fare. Ciao Robè. Non c'è nessuno? Ah, fino a poco fa c'era gente. È che io ho dovuto interrompere e ho abbassato il volume perché stavo mangiando, capito Robè? Adesso ho visto lo smitter muoversi, ho alzato il volume. È riuscito a fare lo smuovere lo smitter, vai, piccolino. Sì, almeno quello sei riuscito a fare smuovere. Io, qui non c'è nessuno, pensavo domani ci fosse gente la sera. Robè, Carlo, sì, sino a due minuti fa eravamo in tre o quattro, e che chi è andato a telefonare, io lo stesso sto per uscire, e quindi adesso vi ho sentito che era ancora acceso, giusto per salutarvi. Allora devo andare, Carlo. Dimmi, Robè. Allora devo andare? No, niente, devo andare a ritirare mia figlia. Però mia figlia rientra stasera da Roma, infatti. Che non arriva l'aereo da Roma? È che te lo controllo in diretta. Beh, te l'hai già mangiato o devi concludere? Roma, quello delle 22.40. Quindi arriva alle 10, alle 11 meno 20. Sì, esatto, 22.40. Milano, Linate, arrivava a 22.30, c'è il ritardo alle 22.50. Ma 22.40 è in ritardo o è l'orario normale? È l'orario normale. Invece ce n'è uno che è atterrato alle 18.55 di Roma Fiumicino e il prossimo alle 22.40. Ok, no, prende quello di metro, partirà intorno alle 9, 9 e mezza, adesso non gli ho chiesto i particolari, metto stanzionetto, mettiti in viaggio presto da già all'aeroporto, perché detto lì basta un ingogo, un incidente e arrivi domani mattina all'aeroporto. Ok, sto uscendo purtroppo, dai, se ci siete poi riprendo, a più tardi, ciao Natalino e gli altri che ci sono. Ciao Carlo, ben sentito, dai, ci sentiamo con calma Mari dopo se coincide. Ciao, vai Natalino. Capa, ciao buona greca, a risentirci, dai. No, non ce n'è più. Oh, Robè, come te l'hanno fatta la domanda della GC a proposito? Cosa vuol dire la GC? Adesso sto pensando. Non so cosa sto pensando, è coso, è HCCP. Sì, quello ce l'ho già. C'ho anche io l'HCCP. La GC mi hanno chiesto, a voce naturalmente me l'hanno chiesta, non per domanda, come si chiama quel meccanismo che serve per regolare i segnali ricevuti dal ricevitore. Ho detto la GC cos'è? E gli ho fatto automatic gain control. Ah, ma lo dica in italiano, controllo automatico di guadagno. Cazzo, mai andà bene, Veda. E infatti me l'ho sospettato che era così la domanda. ma ho visto le domande che hanno fatto, lo sai che ci sono già in continente, nel Lazio e in Campania ci sono i corsi, cioè gli esami li stanno facendo in questa settimana, non capisco come mai diversi dagli altri, forse ce n'erano troppi, perché normalmente le sedute d'esame sono entro il 30 aprile e li fanno verso maggio, ma no cazzo, siamo a giugno, che scemo, sta facendo per sedere, no è giusto così, perché li fanno fino a maggio o giugno, quando ce ne sono tutti, ma tanti magari stanno ancora esaminando. E io lo faccio a ottobre, lo dovevano fare a novembre e invece l'hanno spostato a ottobre. No, da ottobre a novembre. No. Oh, cosa ti volevo dire? Ma c'è bisogno di installare qualche software per collegarsi con qui, o solo i link che ti mandano? No, quando sei lì, ma Natali, per quanto ne so io, le fanno in loco, non le fanno più in coso, in videoconferenza. No, no, le fanno online. Ce l'ha detto quello che è in commissione proprio, ad Antonio, capito? Ad Antonio chi? Quello che ti sta insegnando, quello della sezione di Porto Torres. Ah, tu ma tu sei andato a cosa? A lezione, alla sezione? Eh sì signore. E quante volte alla settimana ci andate? Una volta alla settimana, ma sto studiando anche da quelle video che ho nel computer. Sto seguendo anche quelle video lezioni. Allora guarda, il migliore di tutti è quel tipo di Genova, quello di amatore di Genova deve essere un professore che è troppo bravo, ne sa un bè, è molto comunicativo, è veramente bravo. Io dopo che avevo fatto l'esame ne avevo visto qualcuno di suo, sono mi sembra una trentina di sezioni, ci sono quelle di cose normative, sono un paio di sedute, due o tre, più un 25 del resto, di lettura. Posso dire veramente bravo, poi dopo che lui te l'ha spiegato fa le domande e ci sono le risposte. Sto dicendo, però anche a Luca l'avevo passato, ma poi l'ho passato pure a te, possibile lui, Natalia? Infatti uno va la barba, mi sembra che c'era la barba, ma è veramente bravo, di Genova è questo, della sezione Ari di Genova, ed è veramente bravo. Infatti questo qui spiega bene tutto, e infatti sto andando una volta alla settimana alla sezione, poi sto studiando per conto mio, pure c'ho il libro. Ma chi è che c'hai di insegnante? Chi è che vi fa le lezioni? Uno di Itili è Antonio, si chiama, il nominativo è JXO. Già lo conosco, sì, ma c'ha le condizioni per farlo lui. Lui lavora con Fabrizio, lavora? Non lo so se lavora con Fabrizio, io so che è preparato e le sta facendo. Sì, no, è bravo, un bravo radioamatore, lui fa molta attività con i satelliti, l'ho conosciuto, ci siamo conosciuti in coso, in frequenza, no, è molto bravo, lui è proprietario del ponte ripetitore di Fiumesanto, lui gliel'ha messo. Ah, cappa, no, non le sapevo queste cose, so che va molto in telegrafia quello. Sì, sì, lo so, lui ha una postazione a Itili e una a Sennori, vicino a Mario, con l'altro amico mio, sono attaccati a 50 metri, forse neanche. Ho capito, una brava persona. Antonio. C'è qualcosa di... Sì, sì, no, una, molto appassionato poi, però non credo che sia ingegnere, forse è elettrotecnico, ha lavorato alla cosa, all'industriale, diplomato all'industriale in elettrotecnica mi sembra. E quindi già è preparato. Anche il figlio di mia moglie è perito elettrotecnico, capito? Perito elettronico. È perito elettronico, voglio dire. Quello lì cazzo, va ridendo a fare l'esame. Ma quelli che sono, che hanno un diploma di coso del genere non c'è bisogno di farlo, devono farlo, hanno l'esenzione solo le normative e si presentano e lo danno d'ufficio. No, devi fare l'esame Buruetti e ci hanno di tutto. Sì, ma fanno solo le normative, le nozioni tecniche non glielo fanno fare, fanno solo le normative, prima non c'era neanche bisogno di fare le normative, sino prima del Covid, bastava avere un attestato, un diploma di una laurea in coso, senza le telecomunicazioni, un diploma specifico, oppure radiotelegrafista di bordo, te lo davano l'ufficio, mentre col Covid, che è giusto così, almeno le normative te le devi studiare. Mi è lui, mi è, abbassami la radio. Immediatamente. E infatti è così, Robè, le normative le devi sapere. Chi è che ha detto Cocuoma? Sono Claudio. E allora arresto a Claudio. E a Richard. Ma che cuoco, ma tuo marito, non c'è, capito, cuoco, ma ciao a tutti di nuovo, ho ripreso che ho fuori. Claudio, stai dicendo una parola grossa. No, se non basso non esco più, caro Roberto, buonasera a todos. Ma sai che c'era qualcuno sotto? Chi era avanti? Stavano parlando quasi sotto, ma l'hai scavalcato di radio, c'era qualcuno che stava parlando. Chi era avanti? Mia moglie, era, era sopra, cioè sottomodulata, perché voi siete vicini. La voce acuta. No, non eri tu Natalia, Claudio supera 9.30, tu sei 9.25, non segnale quanto Claudio. Ah, caffa, allora no. Io non perché lui ha schiacciato e ha parlato, allora vedi bambino. A te sovramodula a te adesso. A me mi sovramodula sempre. Arrumasso. Ciao, la signora, no, non sei tu, ma è qualcuno col segnale forte, ti ha schiacciato Natalia. Io sono piccolino, cosa vuoi fare? Io sono la... Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Belli e brutti, qui c'è anche l'amico Claudio, vai Claudio, Massimiliano. Ciao Massimiliano, ben riascoltato di nuovo, no, io ero al telefono, poi stavo, ne ho approfittato per dare una passata l'acqua. Ciao Franco di Sorso. Ah, allora, sentite già, buonasera. Io ti sento sempre, non c'è problema. Ehi, capo, dai. Ciao a tutti, non so che è entrato Massimo e poi Roberto mi sembra, ciao Roberto e ciao Natalino. Ciao Franco, ben sentito, no scusa non ti ho sentito, abbiamo fatto un po' di confusione, vai Natalino. Ciao Massimiliano e ciao Franco, ben sentiti e ben entrati, buonasera. C'ero anche prima io là, ciao Roberto, ciao Natalino, Franco e tutti quelli che stanno ascoltando che quindi sono bene. Quello è poco ma sicuro. Ne conosce uno, un gatto che ha il nome a Rocco. Va bene, avanti Roberto, sono una vita che non ti sento, perché sei qua, cosa ci fai qua? Aspetta, te la Massimiliano, non è che non ti senta, te l'altra volta di sfuggita che te ne stavi andando, ti ho sentito un secondino e boh. Tutto a posto comunque Massimiliano. Là, tutto a posto, là, sempre senza cavalletto, l'appoggio al muro, già lo sai. Ah, così è. È caldo che stai prendendo al lavoro. Ma diciamo che caldo ce n'è, però sono fortunato che sta funzionando bene l'aria condizionata. Ma grande sicura, deve fare subito entrare dentro un ambiente fresco. Il problema, sai che cos'è Robè? Che non è che faccia neanche tanto bene l'aria condizionata, capito? Poi io sono chiuso in un metro quadro, tutto vetri e quando inizia a scaldare. Comunque c'erano 45 anche oggi, dai. E cavalletto, arrivate sono dove sei tu, No, da noi non ce n'è. Ma tu dove sei? Ardala, quella zona lì? No, negativo, io sono a Uschiri. Ah, quindi no, perché a Uschiri c'è il cognato di mio fratello, vedo, sono già arrivati lì. Già lo so, sì. Vabbè, zona di Codrongiano, adesso già è passato il fuoco, quindi l'avrà sterminata. Speriamo bene, dai. Vai Franco, poi Claudio e Natalino, vai Franco. Ehi, sicuramente da te c'è caldo, Massimiliano. Caspita, però c'è l'aria condizionata. Il problema è se te ne devi scendere poi. Avanti, Claudio. Ciao pagato, va bene, ti va bene. Speriamo non arriviamo qua a casa, mamma mi va a rotolare i balli. Qua c'è un bel terreno, va bene, tutto. Sembra però che vadano dove c'è da mangiare, capito? Invece dove c'è roba che non ve la mangia nuda, tutto secco qua, non ci vendono sicuramente. Vanno dove c'è da rosicchiare, da spolpare. Kappa, ho telefonato a Marco oggi, vedi come stava, poi dopo chiedere un'informazione. Te l'ha spiegato? Non ho capito, cos'è detto? Che ho chiamato Marco, l'amico nostro, te l'ha spiegato cosa è successo? No, è passato Fabrizio poco fa in officina di sfuggita, ma di che cosa? Ah, Marco qui, Marco F, Marco, capito. Abbiamo sbagliato l'operazione. Non sono venuto in officina, poverino, mi ha fatto bene, perché era detto, ma lì andassene a cagare, cioè bisogna rifare l'operazione, ma stai scherzando, lì andassene e lascia bisì, e vai fatti vedere da qualche specialista più bravo, era contento, l'hanno fatto soffrire, un bel, e vai, all'interno bisogna rifarla probabilmente. Ma va a cagare. Che schifo, che su quell'occasione sta veramente, ma va a cagare. L'ho chiamato per essere uscito, stava bene qui e là, insomma, ci abbiamo fatto una chiacchierata. Va bene, avanti a chi tocca. Massimiliano, prendi tu. E chi c'è ancora? Mi sembra che c'è anche Gianni. Gianni non più lui, mi sembra, o no? Non lo so, io ero al telefono, sono entrato, ci sono lui, ho ripreso. C'era anche Carlo, non so se c'è ancora. Carlo, ci sei? Ma Carlo è andato a prendere la figlia. Natalino, Franco e tu, eh? Ok. Vabbè. Cosa hanno il Galaxy, vabbè, con Tame più 3B e ce l'ho uno. Ma l'hanno già fatto abbassare perché era più troppo forte, ce l'avevo a due. Se lo abbasso più di uno non esci più. Avanti, Franco di Sosso. E questa la radio ti piace, Claudio? Sì, sì, va bene. Cos'è? E questo cosa? Presidente Lincoln, economia C60. Va bene, ottima radio, ottimo segnale, ottimo tutto, stiamo andando benissimo, Fra, non c'è problema. Vai Natali. Don Fra, senza cose, io la sento leggermente satura. Probabile, sì. Ecco, è così com'è, guarda, ancora satura. Va la sagumba. Dai, non lo, come ne ero accorto, era girato la manopolina. Fra, vieni con me un secondino, ritorno su. Fra, dai, non ti preoccupare, anche perché magari noi siamo molto vicini e quindi niente, là, va bene, comunque così sia alla grande. Santiago 9, a picchi 9:10, sei una bomboletta. Ehi cappa, siccome ce l'ho segnato dove deve rimanere, solo a volte la prendi, la ascolti, la tocchi e si gira. E infatti, Claudio, da te è cambiato la radio così? Da giorno alla notte, però io essendo, avendo il segnale un po' più basso, a me mi arriva 8, Franco, non è basso, mi arriva 8, radio 5, però sì, ho notato un miglioramento molto più bello così, Fra. Capo, va bene, allora vai, avanti Roberto. No, Roberto si è allontanato un attimo al telefono, avanti Natalino. Natalino sta mangiando, riprendi Massimiliano. Positivo. Niente, questa come l'ascolti, Fra? Bella, 5. Non è prepotente, non è forte, però è una bella radio chiara, proprio 5. Aspetta, ti voglio fare un altro passaggio, Così com'è? Aumentato ancora? Ha aumentato un pochino? Sì, che è aumentato. È bella così, la posso lasciare così o come la prima? Io ti ascolto benissimo con tutte e due. Questa è ancora meglio. Lasciala così. Ok, là. Magari ha aumentato poco più di metà il turner. Sicuramente non si sta scaricando la batteria. No, ma è bella forte, lasciala così. No, abbassala, lasciala così. Ok, va bene, allora se mi state dicendo che va bene così la lascio così. Eppure con Franco siamo molto vicini, là. Massimiliano, guarda, anche se siamo vicini, però la radio poco fa sembrava che non era amplificata, invece adesso si sente. Ah ok, allora niente, la lascio così e va bene. Ok. Natali, ci sei? Vabbè, Natalino, non c'è Roberto, vai Claudio, riprendi tu allora, va. Kappa, no, lasciala così Massimiliano, che va bene, io ce l'ho levo a 2, il turner più 3B uguale a quello, però l'ho messo a 1 perché dice che spinge troppo, non lo gioco bravo, forse perché la potenza dell'amplificatore la tende a aumentare anche la radio. Avanti Fra. Kappa, allora sai che da poco fa cosa è successo? Poco fa una ciabatta mi si è partita e pensavo che era partita la radio, il Galax, che ha cominciato a ballare a frequentimetro, poi si accendeva e si spegneva. Aggiungiamo, ci è caduto tutto un camminello, gli è caduto. Ho detto, fregata la radio. E invece era una ciabatta. No, non è detto con le ciabatte, Fra. Ti attuare la Elcon, vendono un interruttore che praticamente ha come un rubacorrente, no? Tu lo attacchi, c'ha l'interruttore, accendi e spegni, e c'ha tre attacchi, uno di quelli americani e due normali, piccoli. stesso, ok? Funziona meglio della ciabatta e c'ha 2 kW, cioè 3 kW per mantenere, ed è del latticino, capito? Sono cose che costa, è un abisemi, un abisemi di Dio, di Zertuiro, mi pare la giubagata. Per attaccare, da me ci sono attaccate solo due linee, due venti, quella del, come che sia diretta, quella delle Galaxy e la 220 dell'alimentatore, basta, dell'alimentatore che uso per gli altri radio, basta, boh, finito. Ed è molto, molto, molto più, fa molto meglio perché è più, che è più sicura, capito? La ciabatta non serve a nulla, non serve a nulla, va Massimiliano. Vabbè, mi da comprare un po' buone le ciabatte, secondo me, capito? No, io lo stesso, io l'ho presa la Eco. Una ciabatta l'ho pagata a 14,90 €. C'ha solo 3 agganci, però almeno sei tranquillo, capito? Quelle cinesi è un casino. No, Massimiliano, non l'ho presa dai cinesi, l'ho presa da Piccomen, l'ho presa. E il problema è che se buso mi pare ne pari anche i cinesi, mi pare. E allora la bisogna fare. Adesso ho deciso di mettermi tutte le prese a muro, 10 prese a muro, dietro la scrivania, e faccio così. Tanto devo modificare qua per le prese e me ne faccio dietro la scrivania, me ne faccio 10. Scusa se te lo dico, allora io a Calvati c'avevo un quadretto fatto fare da un elettricista col salvavita, ti fai fare un quadretto con tutte le prese, sia quelle americane, sia quelle piccole, sia quelle grandi, e il salvavita scende e spegni, lasci tutte le prese attaccate lì, una per una, no? Tutte ammontonate, una per una, quelle che ti servono, e la sera stacchi il salvavita come facevo io, boh, e tu fai un termalotto, non mettere tutte le radio e tutti gli alimentatori su un'unica presa, perché è pericoloso, capito? Con la ciabatta andate in tinte, perché tu l'hai attaccata ad una presa, automaticamente alla ciabatta gli arrivano 3, 4, 5 cavi della 220 e quelli che non tiene più. A parte che vuole industriale, magari la presa era normale, non era industriale, e paghi su questa sala. Perché c'è tanta roba attaccata, capito? Però l'alimentatore delle radio, quello da 50 ampere, quello lì ce l'ho da solo, ha una presa da sola. Quello è tutto da parte. Ehi, però ricordatevi di separare sempre, sempre, no? Su una presa massimo due venti, non ne attaccate di più, non ne attaccate di più perché una presa non regge il carico, va diviso il carico, sempre, sempre, sempre, vai Massimiliano. No, io lo stesso, io invece ho attaccato la ciabatta direttamente a neanche una presa, alla linea dietro dove c'è la scrivania, c'è proprio la scatola di derivazione, ho preso la corrente in linea diretta, ho messo la ciabatta e lì ci ho attaccato un alimentatore che mi serve due radio e poi vabbè il Galaxy Saturn Echo nella ciabatta che da solo, là, diciamo, basta, no, tanto non va giù altro, quindi andava così. Sì, va bene, basta dividerlo, capito? Io se uso per esempio un amplificatore grosso, mica l'attacco su quella presa, l'attacco su un'altra libera, normale, in modo che il carico non sia su, tutto su una presa, perché poi è pericoloso, è molto pericoloso, perché la sovrimento è tanto che è pericoloso, capito? Tutto qua. Ok, dai signori, io me devo allontanare dalla radio, un piacere è stato avervi ascoltato, però me devo allontanare perché mi hanno chiamato per preparare la cena, non per mangiare, per preparare, sono già le 8:20. Quindi intanto saluto Massimiliano, piacere averti ascoltato, saluti a casa, Franco idem, Natalino lo stesso, poi chi c'è? Roberto Rotondo che ha il telefono, salutatemelo voi, ci sentiamo, buona serata a todos, avanti per i saluti, Roberto se ci sei, se no riprendi tutto a Tali. Sì. sono entrato adesso. Ciao Claudio, io rimango per qualche minutino, dai. Avanti anche tu. Ciao Claudio, buona preparazione alla cena, buon tutto alle prossime, dai. Avanti Massimiliano. Cappa, ciao Claudio, buona serata, buona carica a batteria, quando la fai? Beh, ci sentiamo alle prossime, dai. Vai Fra. Cappa, ciao Claudio, buona carica, buon tutto, ce la riascoltiamo alle prossime. Riprendetela Roberto. E allora Massimiliano, ti volevo dire una cosa importante per il discorso dell'aria condizionata, che tutti lo trascurano, va benissimo, ti raffredda, lavori molto meglio, però controllati e fateli controllare il filtro abitacolo, il filtro antipulline, che quelli diventano tutti, diventano luridi, si formano le batterie e ti crede, le allergie è da grande. Non parliamo se c'è bambini, ma non credo in quel caso, perché al lavoro bambini non ce n'è, ma se ce l'hai in macchina ti crede, grossi grossi problemi. Allora Romeo, ti spiego, allora noi facciamo nello scavatore, le facciamo il cambio dell'olio ogni 250 ore, io ho almeno un filtro abitacolo di scorta dietro il sedile, capito, nuovo, e quindi io ogni 150 ore lo cambio, capito, oltretutto ne ho un altro all'esterno, cioè prima di arrivare in cabina ce ne sono tre. Capito, no, su quello già siamo abbastanza all'avanguardia. Meglio così, perché molti si trascurano, te lo dico per esperienza, non mia personale, ma di mio fratello e di altre persone, di bambini, ci hanno creato dei problemi da adulti, oltre che da bambini, che poi te li porti per tutta la vita. Delle allergie, di tirato cioè cos'è, e c'era tutto il problema dell'abitacolo, filtro abitacolo lurido, soprattutto tu quando lavori in zone polverose, il tuo lavoro consiste a utilizzare le polveri, c'è di tutto e di più. Ok, chi tocca di nuovo? Natalino o Franco, uno dei due, vai Natalino. Anch'io l'ho cambiato da poco il filtro, solo che non mi funziona l'aria condizionata. Cata, l'anno scorso l'avevo caricata e si è tornata a scaricare, ma vaffanguale, deve esserci qualche perdita. Quando le piante del vecchio si formano le microperdite, lì purtroppo noi ne abbiamo una di un amico, una uno, appunto come la tua, proprio uguale, punto 188, non si trova un tubo da nessuna parte, esaurito la Fiat, adesso la soluzione è metterli sulla falle, oppure andare a trovare qualcosa negli spazi a carrozze, però di punto non ce n'è neanche una, almeno in zona Sassari, Alghero, Porto Torres, non v'è nulla, sono tutte schiacciate, perché sono macchine, preferiscono tenere macchine più recenti, per cui è un bel problemino. Adesso facciamo riprendere a Franco, avanti Franco. Capo, come mai si scarica poco tempo? Io ce l'ho 15 anni la macchina e non si è mai scaricata. Allora è fisiologico che l'impianto piano piano col tempo perda, soprattutto perché ci sono delle parti in gomma, la gomma non è assolutamente permeabile, anzi è il contrario, cioè non è assolutamente impermeabile, anzi è il contrario, poi ci sono troppi raccordi, tubicini, gli o-ring col tempo tendono a seccarsi perché nell'olio ci sono sostanze un po' aggressive e piano piano col tempo questi o-ring si rovinano, poco a poco però non sono più efficienti come una volta. La macchina mia ha fatto più di 15 anni la multipla, poi a un certo punto si è seduto, però consigliano almeno una volta all'anno fare svuotare l'impianto, fare il vuoto, e mettere l'olio nuovo e gas nuovo, così l'impianto ti dura eterno, diciamo ti dura tanti anni, purtroppo non lo fa mai nessuno, tutti quelli che vengono, 99,9%, vengono perché non funziona più, quando c'è il danno già fatto, qualcuno ha fatto dei danni più gravi che si rovinano i compressori, perché poi vanno a finire delle sostanze, quando sei troppo tempo che lo tieni spento si formano questi ossidi che sono all'interno, consumano, usurano e ti spaccano il compressore. Di nuovo a te Franco. Capo, ascolta, cosa ci vuole per controllarlo, dai, svuotarlo e riempire? Ma cosa ci vuole, di tempo o di denaro? Se vuole di denaro, un tempo vuole essere lui che è. Ma allora il lavoro non per dire niente, ma il lavoro si può fare in due modi, c'è il lavoro giusto che comporta togliere il gas vecchio, l'olio vecchio, fare il vuoto e rimettere olio nuovo e gas nuovo, e costa qualche centinaio, diciamo 130 euro da noi più IVA, oppure c'è il lavoro che fanno molti per risparmiare, dopo quello che c'è, scusate nel telefono, è coso, aiutami, e ci mettono solo, aggiungono solo gas, è come quando tu vai a fare il cambio del luglio, anziché fare il cambio del luglio ci metti del luglio, cioè non lo togli e non cambi il filtro. Io devo rispondere al telefono, ci sentiamo tra poco, scusate, vai avanti a chi tocca. Il capo, sì, ho capito, avanti Massimiliano. Sì, dai, positivo, stavo aspettando per rilanciarmi che io devo chiudere per forza, va? Ok? Ci sentiamo alle prossime, ciao Franco, ciao Natalino, salutatemi a Roberto e tutti quelli che stanno ascoltando, che secondo me ve ne è un bel, specialmente uno che non si fate mai levati giù. Andate, ciao ciao. Va bene, dai, ciao Massimiliano, e non gli auguro venne uno. Ciao ciao Massimiliano, buon proseguo, alle prossime, avanti. Che caldo! Vedi Natalino, in ogni posto ce n'è uno di questi. E magari ce n'è anche più di uno. Fate le guai. Ui. Se ognuno avrebbe fatto gli affari suoi, forse il mondo sarebbe andato meglio. È quello che dico io, Fra, capito? Il problema è che questo ascolta, ma poi si è rimesso al genere con uno e con l'altro, capito? Offendersi le case degli altri, scusando la frase. Ok, ciao, buona serata. Capo. Ciao, ciao, Massimiliano. Dove va? Sono rientrato, non so se è rimasto qualcuno. Sì, ci siamo noi, io e Natalino, vai. Aspetta, c'è stato un break, avanti break, provo a dire quello che non si fa ai fatti suoi. E ok, dai, ben sentito, c'è anche Franco, la Sosso è grande, Natalino da Sassari, ti rilascio prima Franco che è più lontano e poi passerai il mic a Natalino, vai Franco. Ma guarda, vabbè, io non so neanche chi è perché non ho capito, perché non lo ascolto per niente, lo ascolto, sento che parla qualcuno ma in mezzo al QRM non riesco a capire niente. Purtroppo è da muro, lui è un po' sacrificato per la tua zona, no, quasi va bene, supera i 9+10. Vediamo Natalino che l'abbia ascoltato, vai Natalino. No, veramente non stavo seguendo, che avevo un cuticino la 50 e non stavo seguendo, quindi non ho avuto modo di sentire, se lo sentivo. Vai Claudio per Natalino. Ok, vabbè, ma Gecchi, se c'hai modo di lasciarlo stare è utile, ti ammazza gli insetti, non dà fastidio a nessuno, è un animale innocuo, dai, per certi versi è anche utile per toglierti quei piccoli zanzarine, piccoline, cose del genere, moscerini, ti pulisce la casa, poi se ti dà fastidio è un altro discorso. Ok, comunque quello che stava parlando è Franco, in questo caso rispetto al solito arriva un po' più basso, comunque 9 lo tiro fuori benissimo lui, però prova che faccio sentire un po' meglio, il problema magari che lui non sente a te, comunque Franco la Sosso probabilmente qualche volta vi siete ascoltati, però vado a Franco il mic. Capo, chi è Claudio? Claudio da Muros, Claudio che ho arrugginito, non so se ti è capitato di ascoltarlo altre volte. Sì, ci conosciamo in radio, e comunque se non so se mi ascolta lui, ciao Claudio, io a te mi dispiace ma non riesco a tirarti fuori. Vabbè, quando cambierà il QRM, prima ti sentivo sempre. Avanti, Natalino. E io lo sento basso lo stesso a Claudio. Ciao Claudio, se mi stai ascoltando. Già ti sento, bassino, ma già ti sento questa volta. Ma sono che parlate due Claudio con Natalino, cosa hai detto Claudio? Cosa hai detto? Su, adesso non sa più. Ci sei ancora Claudio? Su. Ma la stai uscendo, sì? Sì, stai uscendo. Ho chiamato e non mi hai risposto. Claudio, ci sei ancora? Comunque sento Claudio, ma mi avete chiamato. Claudio Muros. Ah, Claudio di Muros, cioè. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato col tanto, vai. Anzi, non ti ho ancora ascoltato, ti rilancio, ma vi saluto perché sono alle prese con i formelli. Avanti, ho sentito Claudio, pensavo mi stavate chiamando. Avanti Claudio. Aspetta me che saluto. Non fa niente, Claudio. A futtidini, non fa niente. Io ce li ho fuori e li lascio. Stanno sempre attesi sotto la veranda, non fanno niente, fregatene. Dai, ti saluto Claudio, è un piacere averti riascoltato. Saluto mia babba e mamma e a tutti i componenti del Correa. Rilancio Roberto, vi mi saluto e sono i fornelli, ciao ciao. Buona cena, dai. Sta facendo Claudio Muro, su cosa sta facendo? Oh, bellissima modulazione, bel segnale, pulitissima, veramente pulita la radio, complimenti. No, per te ne stava vendendo uno a 500 euro, però se vedete che è una radio vecchiotta, anche se è una grandissima radio, una bestia, è il padre del 940 che ho io, però bisogna stare attenti quando si compra una radio di quell'età, che hanno più di 40 anni, possono avere dei problemi. Ce n'è uno in vendita a 500 euro, poi c'è un 950, sta vendendo amico quello di Mascar, che il successivo a 940, bellissima radio, quello sta dando, non ti vorrei dire, mi pare 700 o 800 euro, che è un ottimo prezzo. C'ha solo un problemino, dove c'è l'attacco del microfono, non funziona il PTT, per il resto funziona perfettamente la radio, ed è un negozio, non è un privato, per cui c'è anche l'affidabilità del corso. C'era una Claudio tempo fa, si è andato un po' in ritardo, c'aveva un 140 fiammante, l'ha venduto a un'altra persona che non si fa il nome qua in radio, quello era nuovo, l'ho visto io, insomma ha venduto 300 euro, era fiammante. Vabbè, quella radio lo supera di gran lunga 500 euro, se poi è in buone condizioni eccetera ne vale molto di più, normalmente le paghi non meno di 600-700 euro con le radio. Insomma, hanno fatto la storia del radiantismo, l'antagonista, c'è l'antagonista, il padre del 940, sono quasi uguali perché sono quattro conversioni, hanno un ricevitore da paura, un modulatore da paura, funzionano che una meraviglia, naturalmente qua in 27 non sono adatte, però come ricevitore da paura. Io ho il 940 che sono le stesse radio, una un po' più aggiornata, ma col TS2000 li fa 10 a 0, ti dico, devi mettere DSP, i filtri per arrivare a sentire le stazioni come le ascolta il 940, molto silenzioso, pulito, non è stancante come radio. Io sono veramente soddisfatto, infatti uso sempre il 940 nelle HF e basta, il 2000 lo sto utilizzando solo per le V e le U e bu. Per le HF gli fa 10 a 0 il 940, il 930 siamo lì. Poi se c'è Claudio dopo ti dirà qualcosa di più specifico, perché Claudio sono in controllo, ne ha avuto i diversi, e ti dirà sicuramente quello che ti dico io. Ok, facciamo riprendere a Franco che è più lontano, e poi a Natalino. Vai Franco. Capo, io riprendo e vi lascio perché devo andare a mangiare, vi stavo aspettando di darmi il microfono e niente, ti saluto, ciao Roberto, ciao Natalino, ciao Claudio se mi ascolta, se no me lo saluti tu. Vabbè, ci sentiamo alle prossimine. Io faccio corretti per carica batteria, ciao ciao. Ok, riprendo io, ciao Franco, ben risentito, sempre un piacere, quando vuoi, se coincide è sempre un piacere ascoltarti. E Claudio Di Muro ti ha salutato, Franco, da Sorso, e adesso facciamo riprendere a Natalino, avanti Natalino per i saluti a Franco. Ciao Franco, dai, ben sentito, buon tutto, alle prossime. Cosa ti volevo dire, vabbè, anch'io me la chiudo adesso, ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao Natalia, anche a te, ben risentito, sempre un piacere, ok. Claudio Muro, sono avanti per Natalia. Che mi sa che ha chiuso Natalia. Allora, 4.30, forse in ricezione leggermente superiore alla, scusa, alla 4.40. Però c'è da dire, ci sono 10 anni di differenza, per cui i problemi sono amplificati rispetto al 4.40, anche se il 4.40 problemi ne ha congeniti, è nato con quei problemi dei condensatori, però una volta che è stato riparato anche lui, ti fa altri 10 anni tranquillamente. Io 4.30, il limite del 4.30 alle memorie, perché c'ha poche memorie e basta, diciamo una radio dedicata per altri scopi, però il 27 funziona che è una meraviglia, una bomba, come funziona benissimo il 4.40. Il 140 dei tre è probabilmente il più affidabile, però è scomodo perché c'ha questi slider e appena li tocchi ti cambiano di un peduzzino, ti esce a piena potenza, il microfono la stessa cosa, è un po' scomodo da utilizzare, però come robustezza è una radio che la tieni spenta da 10 anni, la riaccende e funziona sempre, al contrario del 440. Belle radio, no, sempre sulla 27, 430, 140, 680, cosa mi sono dimenticato, 440 sono le radio migliori. 757 è nato come antagonista del 140, va benissimo in banda laterale, il 27 più di quello non li puoi chiedere perché tira 25-30 watt e non di più, però il suo sporco lavoro se lo fa, io ti ascolto molto bene, modulazione chiara e comprensibile, non posso dirti niente. Sì, 930 c'è di mono che c'era dentro il contenuto, tira fuori 100 watt effettivi, puliti, fare in M non è un granché, perché non è dedicato a quello lì, però in banda laterale spacchi il nido agli uccellini, come si dice. 440 e 430, 140 e 70 vanno meglio in AM, in 27, però quello in banda laterale li fa 10-0 con tutte le altre, diciamo, di 440, 140 eccetera. È una bestia, 930 è una bellissima radio, però c'è sempre da dire, sono radio molto molto vecchie, oggi vanno bene, domani non si sa, e non si trova più niente di quelle radio lì, per cui la scelta, ti direi prendi su 440, perché anche il 430 magari è leggermente superiore come prestazioni, modulatori, però il problema è c'è 10 al 430, del 440, per cui è più soggetto a rottura, e quando ti si rompono con la radio qui ti è finito, già sta diventando un problema col 440, però c'è qualcosa in giro a cannabilizzare, ne trovi qualcosa, al 430 non trovi proprio niente, è proprio 0-0, poi decidi tu. Il 440 io sceglierei di prendere il 440 solo perché c'è 10 anni di meno e basta. 140 lo lascerei perdere. Ok, mi rubate il mic. Ma io ti dico una cosa, il discorso dell'accordatore per me è relativo. Tu, una volta che c'hai l'antenna accordata, io ho la Mantova, io l'accordatore del 440 non l'ho mai usato in vita mia, io uso solo l'accordatore nelle HF, perché lì c'è diverso, perché tu appena appena devi per forza accordare, lì c'ho le l'accordatore del 440 è un giocattolino, una volta che c'è l'antenna accordata non te ne va in uso a me, cioè è inutile, è una cosa che ne puoi fare anche a meno, ce l'hai, è meglio averlo, per dire se devi andare ascoltare un pochettino più su o più in giù, magari se vuoi fare dei DX tenendo salire un po' su magari, ma se c'è una antenna che la gamana, per dire ti fa da 26 a 28, a voglia che viene. Buonasera, vabbè, sei un bel amplificato, ma un bel abbascia, ti sei facendo in tutto. Ma come amplificando? Non mi ha detto niente nessuno. Ma stai gridando, un cazzo di sono, prima lo già confermi. E poi ci hanno lasciato lo spazio per entrare, come fa a dirti la cosa? Senti i macchinette, va bene. Ciao Gianni, ciao Luca, non mi ha detto niente neanche Claudio, anzi Claudio era droppuato confronto agli altri, aspetta, ho abbassato il microfono, ce l'ha uno questo. È andato, un bel fuoco. Come non piace questa modulazione Roberto, non si dice proprio. Ma no, questo è un altro microfono, questo è un MC50, non è il mio. È un po' cupo e si sentono molti bassi. Vabbè, una radio microfono diverso, un altro. Con altre cose, l'MC60 l'ho messo da un'altra parte, l'altro MC60 l'ho mandato da un amico, siccome era quello di Fabrizio, erano esplosi i tasti dell'up down, me li sta facendo con la stampante 3D, gli ho dato la base e me lo sta costruendo. Poi c'ho l'altro, come si chiama, l'MC85 l'ho messo con il TS2000 e la Lunis, che è quello che mi piaceva più di tutti come estetica, l'ho attaccato al 711. Ok, cosa vuol dire? Luca, ma tu stai facendo danno di segnale invece, no? A parte la radio l'hai sempre fatta fortissima, è bella e forte, però adesso il segnale sta andando via la bomba. Sì, Robert, sei un bel alto, sei un bel amplificato, abbassa, io non ti capisco, e lui talmente forte non si capisce niente. Guarda, adesso ho messo meno di uno, cazzo, non mi dire che è ancora l'altro. Come? Adesso va bene, Robert, bianco un attimo, arrivo subito. Vai, come si chiama, Gianni, che c'è anche Muros, Claudio. Buonasera a tutti, innanzitutto. Stavo cercando di entrare, ma voi eravate troppo presi dal discorso e non facevate fuori bianco. Avanti, Claudio, buonasera. E lì il fuoco è arrivato e quell'incendio che c'è stato questi giorni da voi niente c'è stato. Già, 5 secondi di telefono, scusatemi. E noi l'altra notte si è incendiata la macchina sotto casa, stavamo camminando e si è incendiata la macchina e noi stavamo dormendo con le finestre aperte, c'è entrato tutto il fumo dentro casa, sembrava proprio un crimine. Se non me ne accorgo rimaniamo, ci trova lo stecchino. Ma il fumo c'è entrato perché era proprio sotto la finestra di casa mia, capito? C'è entrato tutto il fumo dentro in sala e nelle camere da letto. La cucina no, era chiusa la porta. E per fortuna il cane e gli uccelli erano lì dentro, quindi non hanno respirato il fumo, capito? Invece noi come siamo usciti abbiamo cominciato a tossire e siamo dovuti scappare fuori. Con uno straccio bagnato ci vuole. Roberto si è sentato un attimo che l'hanno chiamato al telefono. E anche io non stavo passando lì di fronte al fornitore che c'è lì a Muros, lì sotto, là. Dove c'è il cementificio lì, era tutto incendiato, le montagne che c'erano lì erano tutto fuoco, c'erano canadere eccetera eccetera, sempre lì quella zona succede. Sì, ho letto che sono arrivati anche uno da Roma, è arrivato, e c'erano tre canader, un elicottero della forestale, e poi i mezzi a terra, volontari, vigili del fuoco, eccetera eccetera. Ma il fuoco, guarda, è tremendo, dice che stiamo avvicinando alle abitazioni, è la protezione civile, i ragazzi volontari lo stesso che rischiano da terra. Io l'ho fatto per tanti anni quel lavoro lì, e il fuoco è balordo, se ti gira dietro. Eravamo con gli atomizzatori, una volta l'incendiato la pietra di Platanoa, stavamo andando a spegnere, avevamo l'atomizzatore in spalla e stava finendo l'incendio, ha girato il vento, cazzo, per poco non ci incendi a noi e l'atomizzatore che ci avevamo in spalla. E non lo capiscono che facendo queste cose poi a discapito anche loro, incendiando tutte le campagne, bruciando il terreno, perché poi il terreno vuole di nuovo fertilizzato, perché una volta che brucia non produce più nulla il terreno, c'è poco da fare, vuole di nuovo fertilizzato, messi di nuovo di concimi, eccetera eccetera. Non è solo a bruciare gli alberi, anche gli alberi, ma il terreno pure se diventa asso non dà frutto. Sono dispetti che si fanno tra pastori, per terreni, per questo, per l'altro. Ma non è così che si deve fare, perché così rovinano la natura brutta. No, Roberto deve essere uscito. Ma che cos'è? Un geco? Oh, tranquillo che non fanno niente, anzi si mangiano le zanzare, si mangiano gli insetti, ma non ti fanno niente i gechi.